Quando si gioca un gioco non si pensa più di tanto alle regole o a come rivolgersi agli altri. L'esperienza di gioco è un'esperienza particolare perché mette in gioco sentimenti che riguardano il piacere dello stare insieme e la giusta concentrazione finalizzata al raggiungimento di un obiettivo. Il gioco divide nella competizione e unisce nell'esperienza di gioco. Per quanto riguarda le regole, invece, il discorso è differente. È difficile che durante il gioco si pensi alle regole in senso più generale rispetto alla partita che si sta giocando. Il più delle volte si pensa a seguire o a girare, difendere o contestare il regolamento di un gioco. E questo è un atteggiamento convenzionale, necessario al corretto svolgimento della partita. Si accettano le regole per quello che sono e ci si relaziona ad esse. È difficile che durante il gioco ci si metta a pensare che quello stesso gioco da un'altra parte del mondo possa avere un set di regole differenti per un solo dettaglio e che pure possa cambiare nel senso generale. Si tratta infatti di un fatto assolutamente normale e apparentemente banale, almeno fin quando non ci si trova a giocare a quel gioco secondo regole a cui non siamo abituati. Solo attraverso un'esperienza simile si capisce come il gioco sia in realtà un mondo, una rappresentazione e che le regole siano l'impalcatura di questa rappresentazione, e quanta differenza e quanto disorientamento porti con sé una variazione a quelle stesse regole, per quanto minima possa sembrare. Il gioco del risico, per le sue caratteristiche e la sua storia, si presta bene ad affrontare questi due aspetti particolari. Radio 110 presenta Bim Bum Bale Giù, un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim bum bale giù, così gioca il mondo. Benvenuti alla 13ª puntata di Bim Bum Bale Giù, così gioca il mondo. Il programma di giochi da tutto il mondo in onda su 110 Web Radio, la radio dell'Università di Torino. Durante le ultime puntate ci è capitato di frequente di attraversare il territorio dei giochi in scatola. In un'occasione abbiamo anche seguito quali sono le fasi della sua realizzazione e anche quale può essere il senso di inventarsi un gioco completamente o parzialmente nuovo. Nella puntata di oggi vogliamo interrogare invece il gioco in scatola, in particolare quello del risico, per quanto riguarda l'esperienza di gioco vera e propria. Il risico, come avete sentito nell'introduzione, oltre a essere uno dei giochi più noti e diffusi in Italia, è interessante anche per altre due ragioni. La prima è che il tipo di gioco si presta a una socializzazione particolare tra i giocatori, anzi la necessita, sebbene le regole del gioco non la stabiliscano e non la prevedano esplicitamente. La seconda ragione è che il risico nella versione italiana presenta un regolamento diverso dalla versione internazionale, che cambia sensibilmente il gioco e il tipo di approccio alla partita. Per queste ragioni è interessante parlare di risico per cogliere due aspetti importanti, che collaborano sia attivamente che passivamente allo svolgimento del gioco. Il rapporto tra giocatori e il rapporto tra regole e gioco stesso. Ne parliamo con Spartaco Albertarelli, game designer e inventore di giochi presso l'editrice Giochi, al quale, per cominciare, abbiamo chiesto quanti giocatori giocano a Risico in Italia, per offrire un inquadramento più preciso sulla diffusione di questo gioco. Inizio subito con la prima domanda: quante persone giocano a Risico in Italia, quante persone sono iscritte ai club ufficiali di Risico e dove risiede il fascino di un gioco come Risico? Allora, alle prime due domande è abbastanza difficile dare una risposta precisa, perché in realtà non abbiamo dei dati molto concreti sul numero esatto di persone. Sicuramente Risico è il gioco più giocato in Italia, questo è fuori di discussione, ed è un fenomeno tipicamente italiano, perché è un gioco che si è sviluppato nel nostro paese in una maniera del tutto particolare rispetto a quella che è l'edizione internazionale. Forse per delle caratteristiche proprio sue peculiari ha trovato proprio nel pubblico italiano il pubblico più attento e più appassionato. E iscritti ai club, anche lì difficile dare un numero preciso, anche perché noi abbiamo alcuni club che sono club ufficiali, che sono quelli che in qualche modo fanno direttamente capo a noi, però sono una piccola parte dei club di Risico che esistono in Italia, che sono migliaia credo, perché in ogni paese c'è qualcuno che si riunisce tutte le settimane a giocare a Risico con gli amici da sempre, e quindi non abbiamo un dato preciso. Posso darti un numero se proprio hai bisogno di un numero, è quello delle partite che vengono giocate online da quando abbiamo lanciato Risico Digital, che consente di giocare online, ed è come dico solamente in Italia, quindi parliamo esclusivamente di un pubblico italiano. Vengono giocate più o meno 1 milione di partite all'anno, ciascuna con una media di 4 giocatori. Molti naturalmente, non è che ci sono 4 milioni di giocatori, però 1 milione di partite per un gioco che ha una durata media di almeno 35-40 minuti, perché non una cosa che si svolge in pochi minuti, sono per il mercato italiano una cifra veramente molto elevata. In che cosa consiste il fascino del gioco? Io credo che sia veramente il gioco adatto per il pubblico italiano, perché in qualche modo è un gioco che ha delle caratteristiche simili a quelle del calcio. Quello che vince può andare in giro a dire di essere stato il più bravo, e quelli che hanno perso possono dire di essere stati sfortunati, e questo in qualche modo ricalca ricalca, se vuoi, la dinamica del gioco del calcio, dove comunque alla fine non si sa mai chi è veramente il più forte e si può andare avanti all'infinito a discutere su chi aveva giocato meglio, su chi avrebbe meritato di vincere e invece non ha vinto. I dadi, che naturalmente quando si perde girano sempre malissimo e naturalmente girano benissimo per quello che ha vinto, quello che vince che invece può sostenere ragionevolmente di aver vinto grazie alla sua strategia. Quindi ha tutte queste caratteristiche che secondo me sono veramente perfette, specificamente per il pubblico italiano. Bim bum bale giù! Riprendiamo dal sito dell'editrice Giochi, la casa editrice che si occupa dell'edizione italiana del Risico, le parole di Emilio Ceretti, storico fondatore dell'azienda, per raccontarvi la primissima origine di questo gioco. Il gioco Risico è nato per caso in una tranquilla famiglia francese, dove i giochi non erano popolari. Tutto l'interesse della famiglia verteva sul cinematografo e il capofamiglia, Albert Lamoris, studiava ogni giorno e anche di notte. Durante interminabili riunioni con la moglie e con i figli, nuovi scenari e nuove sceneggiature e possibili film. Solo una sera di circa 22 anni fa la famiglia, stanca di celluloide e cineprese, si è messa attorno ad un tavolo con un planisfero che illustrava in modo sintetico la superficie del mondo. È qui che la fantasia di Albert, di sua moglie e del figlio Pascal e delle sue due figlie Sabine e Fanny ha cominciato a galoppare. Sui territori dei vari stati sono cominciati a spuntare dei simboli che erano armate e gruppi di armate. Vari continenti hanno cominciato a essere collegati in modo che le armate via terra o via mare potessero avanzare. Insomma, un nuovo gioco di guerra stava nascendo e nessuno di quelli che lo avevano inventato se n'era accorto. Nessuno sparava, nessuno catturava prigionieri, nessun aereo bombardava, eppure qualcosa succedeva. I territori passavano da giocatore a giocatore e gli obiettivi da raggiungere diventavano ogni sera più impegnativi. Giocando a Risico non mi è mai capitato di incitare nemici, tutt'altro. Risico è un gioco che affratella, che accomuna i caratteri in una stessa passione, che risveglia gli istinti migliori, che sono quelli di affermare e far trionfare le proprie iniziative. Insomma, il Risico è un gioco di simulazione in cui la guerra diventa qualcosa di diverso da ciò che rappresenta in realtà, qualcosa che, invece di distruggere, costruisce. Tanti giocatori di Risico hanno iniziato a giocare come estranei, poi, a poco, col rinnovarsi degli scontri e delle battaglie combattute su territori di cartone, sono diventati amici. Questo è uno dei segreti del gioco, della sua diffusione in tutti i paesi del mondo. Questa è forse un po' la radice del suo successo. Dopo aver ascoltato le parole di Emilio Ceretti, torniamo all'intervista a Spartaco Albertarelli, game designer e inventore di giochi presso l'editrice Giochi, che ci racconta l'altra faccia dell'aspetto psicologico del gioco del Risico, cioè quello più battagliero, in confronto anche all'esperienza della partita online, dove l'aspetto socializzante è solo apparentemente escluso, ma in realtà ritorna semplicemente con modalità differenti. Allora, l'aspetto psicologico nel Risico è praticamente fondamentale, nel senso che la capacità dei grandi giocatori di Risico di restare calmi, diciamo così, quando si sta giocando, anche nei momenti più difficili, e al tempo stesso quella di riuscire in qualche modo a provocare gli avversari, non verbalmente, perché nei tornei la cosa è proibita, ma proprio con le azioni di gioco, con gli atteggiamenti, con certe mosse, sono tutti elementi alla base del gioco. Quindi possiamo tranquillamente dire che quando si gioca a Risico, soprattutto ad alto livello, quindi nei tornei, l'aspetto psicologico è probabilmente predominante rispetto a qualunque altro aspetto del gioco, sia la strategia, diciamo, più immediata, quello del movimento dei pezzi sul campo, quindi sulla plancia di gioco, sia la presenza dei dadi. Quindi saper gestire gli aspetti psicologici è certamente la caratteristica più importante dei forti giocatori. Diciamo che questo elemento può essere parzialmente eliminato proprio giocando la versione online, cioè quando si è online chiaramente non si ha di fronte il proprio avversario. Questo naturalmente cambia molto, perché il giocatore di Risico, anche semplicemente nel come lancia i dadi, se lo fa in piedi, se lo fa da seduto, e esercita comunque una pressione psicologica di un certo tipo nei confronti degli avversari, chiaramente giocando online una grossa fetta di questo aspetto viene a mancare, e quindi certamente c'è una certa differenza, che però è difficilmente poi dopo quantificabile, cioè non è che puoi analizzare le partite e vedere che le partite sono andate in una maniera diversa, anche perché non è poi così vero che giocando online non si riesca ad esercitare comunque una pressione psicologica sugli avversari. necessari, ci sono piccoli trucchi tipo ritardare magari la mossa, fare piccole cose, sono completamente diverse insomma, quindi anche se il gioco è strutturalmente identico, poi alla fine in realtà viene giocato in una maniera differente. Una cosa che abbiamo però notato è che i giocatori online poi normalmente sono anche molto forti dal vivo, quindi sono giocatori che in realtà sanno adattarsi alle diverse modalità della partita, quindi il giocatore più forte è capace di modificare il proprio stile di gioco anche in funzione del tipo di partita che sta giocando. Bim bum bale giù! Il risico italiano rispetto al suo corrispettivo internazionale, il Risk, potrebbe dirsi un gioco sbilanciato in difesa. Questo perché nell'edizione italiana del gioco ci sono a disposizione dell'attacco e della difesa fino a 3 dadi ciascuno, mentre nel Risk i dadi sono un massimo di 3 per l'attacco, ma soltanto un massimo di 2 per la difesa. In questo modo, facendo un computo delle probabilità sul tiro dei dadi, nel caso del Risk si vedrà come per ogni eliminazione di una pedina della difesa corrisponderà in media all'attaccante la distruzione di una delle sue. Si dirà in questo caso che il rapporto è 1-1. Nel caso del Risico italiano invece l'aggiunta di un dado alla difesa muta significativamente le probabilità di esito del tiro di dadi. Confrontando gli esiti positivi rispettivamente per difesa e attacco, si vedrà come il rapporto sia sommariamente di 1-2, cioè per ogni carro armato della difesa l'attacco dovrà spendere 2 dei propri. Questo significa che, in uno scontro contro 3 difensori, l'attaccante dovrà considerare di perdere 6 o 7 pedine e quindi, per evitare di indebolirsi, in linea di massima, attaccare con 15 pedine di partenza. Abbiamo chiesto a Spartaco Albertarelli in che modo questo aspetto del gioco contribuisca a caratterizzare il gioco del Risico italiano rispetto al suo corrispettivo a livello internazionale, il Risk. Fra le due versioni c'è una differenza tale che in realtà è come parlare di due giochi ormai completamente diversi, perché non è solo la questione dei dadi. Nell'edizione internazionale il difensore lancia 2 dadi, l'attaccante ne lancia 3. Da un punto di vista matematico questo meccanismo in realtà equivale a fare testa o croce, perché sì, le probabilità di vittoria o di sconfitta sono quasi del 50%, quindi sarebbe come dire: lancio una moneta, se viene fuori testa perdi tu il carro armato, se viene fuori croce lo perdo io. E questo naturalmente riduce molto le scelte dei giocatori, perché portandole al 50% in realtà alla fine è solo una questione di rapporti di forze e questo rende tutto molto più semplice anche da calcolare. Però l'altra grande differenza sta negli obiettivi, che nell'edizione italiana, soprattutto in quella da torneo, sono totalmente differenti. Quindi quando tu vai a giocare con l'edizione internazionale poi comunque giochi con delle regole che introducono ulteriori elementi di fortuna. Voglio dire, il Risico che si giocava molti anni fa, quello dove dovevi distruggere le armate gialle e le armate nere, tanto per intenderci, sì, è un gioco che non può essere giocato a livello di torneo, perché l'elemento casuale, l'elemento fortuito è talmente elevato che in realtà la vittoria può andare a chiunque in qualunque momento della partita. Non solo, ma è praticamente un gioco eterno, nel senso che si possono giocare ore e ore e ore senza mai arrivare a una conclusione. Le regole da torneo invece sono state studiate appositamente per poter giocare una partita a tempo, e quindi determinando un certo numero di turni o di minuti, di ore di gioco, insomma poi ciascuno lo può tarare come meglio crede, al termine dei quali si può dire chiaramente chi sta vincendo in quel momento, perché gli obiettivi sono studiati in maniera tale da attribuire ad ogni giocatore un punteggio in funzione dei territori che ha effettivamente conquistato. Questo cambia radicalmente la questione, tant'è che a me non risultano tornei di Risico con il Risico internazionale, proprio perché non ci sono campionati in altri paesi, proprio perché quel gioco non è studiato per diventare un gioco da torneo, ma è studiato per essere un gioco per la famiglia, per giocare a casa, divertirsi, soprattutto anche molto con i bambini, perché diventa un gioco molto più infantile, non è la parola esatta, più rilassato, sembra forse un modo per sminuirlo oltre quello che è nella realtà, ma certamente è un gioco nel quale alla fine la fortuna la fa da padrona, insomma. Quindi non si possono verificare quelle cose per cui mia sorella se ne va via dal gioco incavolata. È difficile anche perché in realtà dura molto, è molto più rapido, perché proprio questa cosa del rapporto di forze fa sì che nel momento in cui uno ha più pezzi rispetto all'avversario, nota che non dico carri armati perché non esistono i carri armati fuori dall'edizione italiana, perché anche quello è un elemento particolare del gioco, perché conquistare il mondo con dei carri armati è una cosa diversa che non conquistarlo con dei cubetti, dei triangolini o con dei pezzi astratti completamente. però in realtà arriva a un certo punto uno a tanti pezzi, attacca e vince, insomma. Sì, quindi la possibilità di arrivare a sviluppare delle strategie sofisticate con l'edizione internazionale è molto complicata, per non dire quasi impossibile, ma proprio perché quel gioco non è stato sviluppato per andare in questa direzione, sì. Mentre l'edizione italiana è stata poi sviluppata per andare nella direzione dei tornei, tant'è che i tornei si giocano con un'edizione del gioco studiata apposta per i tornei e non con quella classica tradizionale che deriva dagli anni 50-60. Ma guarda, personalmente non penso che ci sia un grande legame con il Go. Sì. Il Go rappresenta uno dei giochi di tavoliere più sofisticati e più precisi che esistano, dove l'elemento fortuna, casualità è totalmente assente. Quindi questo fa già dei due giochi due cose veramente totalmente distinte. Il Go è un gioco, come quasi la stragrande maggioranza dei giochi di tavoliere, che coinvolge due persone e quindi è una sfida fra due persone, quindi è una sfida che è molto più vicina a quella degli scacchi, è molto più vicina a giochi di questo tipo. Il risico ha all'interno, come dicevamo prima, anche degli elementi psicologici che nel Go sono molto, molto inferiori, insomma. Sì. Il Go, fra l'altro, fra tutti i giochi di tavoliere è uno dei pochi che in qualche modo può essere considerato quasi più una disciplina che non un gioco. Sì. In qualche modo, se uno dovesse andare a prendere un gioco di tavoliere e avvicinarlo al risico, forse quello che in qualche modo, ma stiamo veramente tirando per i capelli la cosa, si può avvicinare di più è il backgammon più che il Go, proprio perché comunque è un gioco di tavoliere, sì. Comunque è un gioco di posizione, comunque è un gioco fra due persone, ma i pezzi si muovono lanciando dei dadi, quindi comunque sia l'abilità sta anche nel saper sfruttare le probabilità matematiche di ottenere certi risultati piuttosto che altri. Però, come ti dico, è un'arrampicata sugli specchi, sì. Notevole. E rispetto al wargame, cioè la simulazione di battaglia, diciamo? Allora, la simulazione di battaglia ha una caratteristica similare a quella del risico, perché spesso e volentieri nei giochi di simulazione il dado rappresenta comunque un elemento dominante, sì. Però nei giochi di simulazione il dado viene utilizzato semplicemente per inserire, diciamo, quell'elemento di imponderabilità che c'è sul campo di battaglia, ma il gioco di simulazione per definizione cerca di simulare qualcosa di realmente accaduto e quindi al di là del tema che è genericamente inteso quello della guerra, ci sono anche qui delle grandissime differenze. Tieni anche sempre conto del fatto che quasi sempre il gioco di simulazione è un gioco nel quale ci sono due eserciti contrapposti, sì. Quindi non è il gioco di simulazione che rappresenta tutta la guerra mondiale o cose di questo genere, un gioco di conquista, ce ne sono naturalmente, però se uno si immagina il gioco di simulazione napoleonico, per sì. dire, e il gioco di simulazione napoleonico significa avere la battaglia di Waterloo e quindi io muoverò i napoleonici, i francesi, e dall'altra parte avremo magari l'esercito anglo-prussiano, magari ci possono essere più giocatori, ma in realtà rappresentanti di due squadre, diciamo, sì. No? E quindi anche lì cambia tutto. In quei giochi la bellezza è proprio quello del saper ricostruire la storia e soprattutto il fascino dei giochi di simulazione è quello di vedere se le cose avrebbero potuto andare in una maniera diversa. Sì, no? Sì, sì. Quindi questo è un po' il fascino del gioco di simulazione. Certamente se tu mi metti il Go è un gioco di simulazione e il risico, il gioco di simulazione e il wargame si avvicina al risico molto di più di quanto non si avvicini il Go. Almeno per come vedo io la cosa. Poi sai, quando si parla di giochi la cosa splendida è che si possono in realtà dire tante cose e il contrario sì. Bim bum bale giù. Nell'ultimo frammento che vi abbiamo proposto abbiamo seguito l'analisi di Spartaco in rapporto agli argomenti della scorsa puntata, cioè il confronto tra Go e Risico e di questi due giochi con il wargame, di cui pure abbiamo parlato la scorsa settimana, e così idealmente tendendo un filo di continuità fra i due argomenti. Come dice Spartaco, ci sono degli stereotipi che in antropologia potrebbero essere isolati in seguito a un'analisi più attenta e considerati come aspetti culturali che uniscono queste tre tipologie di gioco, il posizionamento e la battaglia per esempio, ma nel gioco del Risico un aspetto interessante e innovativo rispetto agli altri due sta nel numero delle forze in campo. Il gioco coinvolge un maggior numero di giocatori e in più non li dispone tra due forze in opposizione, ma li pone sul tavolo di gioco l'uno contro l'altro. Rispetto al Go, il wargame e il risico hanno in comune la presenza del dado, ma rispetto al wargame, il risico non è una simulazione, ma un gioco di strategia. Non serve ad esplorare nuove realtà alternative, ma si propone di mettere in campo l'ingegno dei giocatori senza riferimenti storici. In questo senso, il gioco continua a svilupparsi per offrire ai giocatori nuove sfide di abilità, come per esempio nella versione online, nella quale, secondo l'esempio dei tornei, il fattore tempo diventa essenziale e discriminante in modo molto concreto, anche in rapporto alle esigenze della rete come supporto nuovo e sostanzialmente diverso dall'esperienza di gioco faccia a faccia. Sì, è la caratteristica principale, che è poi diventata la caratteristica fondamentale del gioco online, dove sì, addirittura c'è il tempo personale. Ah. Tu hai una certa quantità di minuti di gioco tuoi che devi saper sfruttare, esauriti i quali tu puoi continuare a giocare ma con delle limitazioni. Ah. E quindi in realtà si è sviluppata una modalità di gioco per cui saper tenere il tempo, come si dice, cioè risparmiarlo rispetto agli avversari, significa arrivare alla fine con gli avversari che hanno poche mosse a disposizione e tu che invece sei ancora libero di fare quello che vuoi perché sei stato capace di risparmiare il tempo, che però non è una questione di rapidità, sì, no? Quindi non è tipo videogioco dove uno è più rapido dell'altro, ma è proprio una questione di capacità di essere sì veloci nel fare le mosse, ma soprattutto agire, fare, perché ci sono tutti dei parametri che ti diminuiscono il tempo se tu non fai nulla, per esempio, sì. Quindi non fare niente non significa risparmiare tempo, significa sì, perderlo. È un sistema abbastanza interessante, sì, anche perché magari crea un po' di fidelizzazione rispetto al gioco, perché devi giocare, non puoi non giocare. Assolutamente, tieni conto che sull'online anche questa è nata da un'evoluzione, no? Dall'esperienza, certo. Perché è chiaro che tu sull'online, soprattutto in un gioco come Risico, dove non hai una grafica particolarmente emozionante, sì, insomma, hai una plancia con dei numerelli e dei colori che cambiano, quindi non è che stiamo parlando di una cosa per cui sei affascinato da grafica spettacolare, anche perché giocando online peserebbe troppo mettere sì, una grafica di questo genere. Per cui bisogna cercare di fare in maniera tale che quando è il turno dei giocatori siano incentivati sia a giocare rapidamente sia a fare qualche cosa di significativo, e quindi nel tempo abbiamo sviluppato questo sistema che ormai è abbastanza stabile da almeno un paio d'anni. Non abbiamo fatto più ritocchi a questa parte delle regole, perché ormai siamo arrivati a un punto che riteniamo essere ottimale fra la durata e un certo pathos mentre stai giocando. In bomba! Ringraziamo Spartaco Albertarelli, game designer e inventore di giochi presso l'editrice Giochi, la casa editrice che produce la versione italiana del Risico, per aver condiviso con noi la sua esperienza e la propria visione sull'argomento. Adesso lasciamo la parola a Luca Cerrato e alla rubrica del Fogliaccio. Bim Bum Ballè Giù presenta la rubrica del Fogliaccio, a cura di Luca Cerrato. Gli autori ludici. Incomincio questa puntata con due nomi, Alex Randall e Sig Sackson. Molto probabilmente per la maggior parte degli ascoltatori sono perfetti sconosciuti. Sappiate che questi due signori, ormai tra i più da tempo, hanno fatto la storia dei giochi moderni, creando in alcuni casi delle vere e proprie opere d'arte ludica. Se un libro viene scelto anche per chi l'ha scritto, perché non farlo per un gioco? L'autore ludico è colui che ha l'idea primordiale del gioco, ha un proprio stile e crede che la sua creatura possa essere una sorgente di divertimento. Da ricordare che oggigiorno è consuetudine scrivere su ogni scatola il nome dell'autore, ma per ottenere ciò si è dovuto attendere molto tempo. Torniamo ad Alex e Sid, che negli anni 50 incominciarono a creare i giochi da tavolo a livello professionale. Tra le tante creazioni di Randolph si possono ricordare Twist, un gioco astratto di connessione, Venice Connection e Incognito, ambientati a Venezia, Buffalo, African Queen, una variante della dama moderna, Fantasmini, un simpatico gioco astratto di bluff, Velen, altro gioco astratto molto particolare. Gli Sig Sackson sono celebri Acquire, una simulazione finanziaria molto astratta, Can't Stop, divertentissimo gioco con i dadi, Bazaar, Focus, un interessante gioco astratto in cui i giocatori costruiscono delle torri di pezzi. Oltre ai giochi bisogna ricordare il suo famoso libro A Gamut of Games. Avvicinandoci ai nostri tempi, senza alcun dubbio il più conosciuto e produttivo è René Knizia, ideatore di centinaia di giochi tra cui si possono evidenziare Tigre Eufrate, Ra, un interessante gioco di aste ambientate al tempo degli antichi egizi, Modern Art, Samurai, gioco astratto di piazzamento ambientato in Giappone, ed infine Celtis, con cui nel 2008 vinse in Germania il gioco dell'anno, importante premio ludico. Altri autori da ricordare: Wolfgang Kramer con El Grande, Tikal e Il Principe di Firenze, l'inglese Alan Moon con Ticket to Ride, simpatico giochio ferroviario, ed Elfand. Passiamo agli italiani, sperando di non far troppi torti. Possiamo ricordare il veneziano Leo Colovini, allievo di Rand, Randolph, insieme hanno ideato Incognito e tra i suoi giochi Clans, Cartagena, Carlos Magnus e Atlantis. Il romano Andrea Angiolino, famoso in tutto il mondo con il suo gioco Wing of Words, interessante simulazione di battaglie aeree della Prima Guerra Mondiale. Infine, una realtà tutta torinese, di autori ludici, di livello internazionale. Walter Robert, che ha avuto anche l'onore di collaborare con Alex Randolph col suo gioco Vampiri in Salsa Rosa. Altri suoi giochi sono Chan Cheng, ispirato alla Grande Muraglia Cinese, Strada Romana e il party game Tokyo Train. Gli autori presentati sono una piccola minoranza di un folto gruppo di creatori che ogni anno pubblicano centinaia di giochi. Bim Bum Bale Giù! Parlando del Risico abbiamo avuto modo di parlare in realtà di due giochi. Il primo, la versione italiana, chiamata appunto Risico, è un gioco di strategia sbilanciato in difesa, in cui all'attaccante spetta il compito di studiare stratagemmi, anche di tipo psicologico, per riuscire a snidare il difensore e colpirlo dove è più debole. Il secondo, invece, chiamato Risk, corrisponde alla versione originale internazionale del gioco. Un gioco più breve, più veloce, più leggero, anche più facile, pensato per l'intrattenimento in famiglia. L'aspetto discriminante che rende questi giochi differenti è un dado. L'avevamo visto anche con Paolo Vallerga, come una semplice variazione possa cambiare sostanzialmente un gioco, ma nel caso del Risico la variazione è particolarmente significativa. Tra i due giochi è come se si creasse una spaccatura, cambiano le modalità, il pubblico, il successo commerciale e il valore culturale del gioco. In Italia è un'istituzione, nel resto del mondo uno svago. Per questo in Italia si tratta di una realtà ludica più viva, che produce trasformazioni nel prodotto in rapporto all'esigenza del contesto, un torneo nazionale oppure una partita online. Nell'ottica delle innovazioni entra in gioco il fattore tempo, che rappresenta una nuova sfida posta dall'editore al giocatore, e di cui l'editore ha colto il potenziale creativo dal giocatore stesso, confrontandosi con lui, giocando. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Ringraziamo Spartaco Albertarelli, game designer e inventore di giochi per l'editrice Giochi, per la gentile collaborazione, e Luca Cerrato per la rubrica del fogliaccio, nonché Carlo alla parte tecnica. Ricordiamo i contatti, l'indirizzo email 110webradio@gmail.com, il nostro blog cosigiocalmondo.blogspot.com e la nostra pagina di Facebook. Io sono Francesco, l'appuntamento con la 14ª puntata di Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo è per mercoledì prossimo, sempre alle 20, sempre su 110 Web Radio. Buonasera. Avete ascoltato? Bim Bum Bale Giù! Un programma a cura di Francesco Rigoni. Bim Bum Bale Giù, Così Gioca il Mondo.